Beh, diciamo a questo punto forse vale la pena fare due parole su un altro dispositivo coloniale che è l'antropologia. Cioè, l'antropologia, esattamente come il diritto contemporaneo, cioè, ovviamente l'antropologia ha radici antiche, eccetera, però la sua nascita è nel e con e per il e grazie al colonialismo. Quindi qui forse possiamo cominciare a vedere dei paralleli, no? Tra l'uso di queste scienze per un progetto militare di conquista, sottomissione, estrazione di profitti e di risorse, deumanizzando e rappresentando il prossimo come da una parte non titolare dei diritti, dall'altra non titolare di patrimonio, storia, diciamo tracce materiali. E per quanto riguarda l'antropologia, rappresentare i popoli non europei come, ad esempio, era la grande definizione del passato, popoli senza storia, o popoli senza scrittura, o popoli senza X, no? Per cui c'è una storia lunga dell'antropologia in cui si essenzializza questa grande divisione tra popoli con, che siamo noi, e popoli senza, no? E naturalmente, questo è una struttura di base del pensiero antropologico che da sempre è stata contrastata dentro la stessa disciplina, e io credo che qui si può fare un parallelo con l'archeologia e con il diritto. Ci sono sempre stati studiosi anche di altissimo livello e anche con delle posizioni importanti che sono riusciti a mettere in crisi questa storia. Io penso nell'antropologia nell'Ottocento, per me, il referente è Morgan, no? Che tra l'altro era un avvocato e che vive tra gli irochesi, mostrando che tutto questo senza in realtà è contrastato da una serie di con, cioè che le popolazioni che venivano conquistate, sottomesse dai coloni, diciamo, americani, avevano forme di organizzazione sociale che potevano dare degli insegnamenti sostanziali anche alla società bianca, in qualche modo, che non avevano nulla da invidiare, anzi avevano realizzato forme di democrazia. Adesso forse diremmo confederale, che contrastavano con forme autoritarie e razziste della società bianca. Quindi c'è sempre stato all'interno del discorso antropologico un contrasto, un conflitto tra la sua struttura intrinsecamente coloniale, in cui appunto il bianco studia i neri, e un'opposizione interna anche di alto livello che usava invece la disciplina come strumento, possiamo dire, anche di liberazione. Questa era anche una terminologia non troppo diversa da quello che usava già Boas a inizio Novecento, cioè che era possibile utilizzare l'antropologia per una forma di intervento nel presente. E io mi ricollego a quello che sta succedendo in questo momento, proprio perché credo che dalle radici delle nostre discipline possiamo anche capire bene alcune trasformazioni del presente. E in questo momento l'antropologia è una delle scienze che forse leggermente più degli altri sono riuscite a organizzarsi e a prendere parola contro il genocidio in Palestina. E questo è avvenuto già poco prima del 7 ottobre, perché dopo 10 anni di battaglie interne, condotte proprio grazie al tentativo di decolonizzare questa disciplina, l'associazione di antropologi più importante del mondo, che è la AAA, American Anthropological Association, ha sostenuto, ha dichiarato di aderire al boicottaggio accademico alle università israeliane. Questo è stato un voto storico, è stato a luglio del 2023, se non sbaglio, sì, e prima quindi degli attacchi del 7 ottobre, la AAA dichiara di non boicottare i singoli ricercatori israeliani, secondo le regole del boicottaggio accademico, del PACBI, no? Che insomma, forse, insomma, magari se serve lo possiamo anche riraccontare. Comunque, non è un boicottaggio diretto ai singoli ricercatori, ma è diretto alle istituzioni responsabili in quel caso, di apartheid e in questo momento più palesemente di genocidio. Questa risoluzione non viene dal nulla, viene da e qui è importante dirlo, la e questo ha a che vedere anche con le proteste di adesso nelle tende, la decolonizzazione delle discipline viene dalle battaglie in strada, cioè se sono nate le scienze, se sono nate gli studi culturali decoloniali, per esempio a Berkeley, è perché a Berkeley ci sono state delle rivolte studentesche che hanno messo in crisi il sapere, diciamo verticista e strutturalmente elitista che si insegnava in quell'università. Quindi quello che è successo nella Tripoli ha dovuto reggere una serie di battaglie, di contrasti, di conflitti. C'era stato un primo tentativo che era stato bloccato da antropologi non solo israeliani ma anche americani e tedeschi soprattutto, che per esempio dicevano, questa è una frase di Dan Rabinowitz, che dice: non possiamo votare per il boicottaggio perché è ridicolo rendere responsabili i nostri colleghi. E questo è ancora, questo è una frase nel 2015, nel 2023 naturalmente l'Associazione Antropologica Israeliana si è opposta ferocemente alla risoluzione della Tripoli. Poco dopo, il 7 ottobre, però, l'Associazione di Antropologia Europea, l'EASA, la European Association of Social Anthropologists, ha fatto un comunicato molto chiaro in cui, ad esempio, evitava di menzionare il 7 ottobre e si concentrava esclusivamente sul genocidio, sulla pulizia etnica. E questo per noi è naturale, nel senso, l'antropologia questo studia. Chi se no gli antropologi sono, e le antropologhe possono prendere parola in un momento in cui il contrasto politico usa così diciamo disgraziatamente i concetti di cultura e di religione, che sono concetti elaborati da diciamo il concetto di cultura era stato elaborato per opporsi al concetto di razza e invece viene usato in senso razzista. Di nuovo, quello che è importante è capire come adesso si sta utilizzando l'antropologia per fermare i tentativi di boicottaggio, i tentativi di opposizione al dominio coloniale e al genocidio. Quello che a me sembra molto interessante, e lo dico dopo alcuni mesi in cui appunto con alcune altre antropologhe e antropologi abbiamo cercato di far prendere posizione a delle associazioni, le associazioni italiane di antropologia, non ci siamo riusciti e l'impressione che almeno io ho avuto è che il modo in cui viene raccontato non so neanche se dire, diciamo la conquista coloniale della Palestina da parte di Israele, invece di usare, come usava un tempo, l'essenzialismo vuol dire che l'altro è rappresentato per esempio come essenzialmente inferiore o essenzialmente incompatibile con i nostri valori, prima come razza inferiore, adesso come cultura diversa dalla nostra. Questi sono i meccanismi essenzialisti, no? L'essenzialismo è sempre stato lo strumento coloniale principale in ambito antropologico. Adesso questa cosa è cambiata perché è difficile mantenere una posizione. Ancora ci stanno gli antropologi che dicono: no, il problema non è il genocidio ma la jihad globale, perché l'Islam è una religione di morte. Lo dicono degli antropologi, ve lo dico, se vi interessa vi dico pure non in pubblico. Però adesso c'è un uso forse più perverso di uno strumento che sembrava uno strumento di liberazione, che è il postmodernismo e il relativismo. Dagli anni Ottanta l'antropologia ha capito che è importante far vedere la complessità della propria interrelazione con soggetti studiati, descrivere la realtà sotto molteplici forme di narrazione, non uniformare la narrativa a dei codici standard, e queste erano delle modalità, diciamo, di trasformazione radicale della disciplina. Ecco, adesso noi vediamo che molto spesso chi tenta di dire fermiamo il colonialismo e fermiamo il genocidio viene bloccato da una narrazione che dice: noi antropologi, noi scienziati sociali non possiamo prendere posizione perché la realtà è complessa, la realtà è relativa. Quello che ti sembra, che può sembrare la vittima, in realtà può essere anche carnefice. Ridurre la realtà a vittime e carnefici è uno schema passato, fanoniano, di bianco e nero che noi dobbiamo combattere. Quindi, siccome la realtà è complessa, indicibile e non raccontabile se non a frammenti, allora non possiamo fare niente. E questo è un nuovo uso coloniale della scienza dell'etnografia e dell'antropologia, che è più sottile di quello essenzialista classico del colonialismo, che ti dice quelli sono inferiori. Adesso, invece di dire quelli sono inferiori, ti dice: siccome è tutto molto difficile, non è ben chiaro chi è l'oppresso e chi è l'oppressore. Ora, io penso che in Palestina non ci sia alcun dubbio su chi sia l'oppresso e chi sia l'oppressore, e che la nostra scienza, nel momento in cui non riusciamo a riprenderla in mano, non trascurerà certo di leggere la complessità, ma sarà anche in grado di leggere le relazioni di forza, i rapporti di potere e l'esistenza strutturale di forme di oppressione e di sopraffazione, che non significa semplificare la realtà, leggerla in questo modo, significa complessificarla senza perdere la capacità di leggere anche eticamente la propria implicazione e l'implicazione di tutte le parti in causa. Io credo che questo sia un po' il lavoro che in antropologia alcuni stanno cercando di fare contro una marea montante di uso reazionario, revancista della disciplina, e che può avere paralleli in quello che sta succedendo nelle altre discipline.